il giorno del Signore, di e si la. Come in principio, così alla fine, di e si re, di e si la, così.